voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. La famiglia Messina e l'invenzione del letto Flu, di Irene Privitera. Flu nasce nel 1978, fondata da Rosario Messina, siciliano di Aci Castello. Oggi conta 130 dipendenti e una fitta rete di rivenditori. Dopo la scomparsa del fondatore nel marzo 2011, oggi alla guida di Flu c'è il figlio di Rosario, Massimiliano Messina. Flu nasce per vendere il piumone, che adesso ormai è un prodotto di uso comune, ma 30 e passa anni fa era questa grossa innovazione per il mercato italiano. E l'obiettivo era vendere il piumone nei negozi d'arredamento. Viene chiamato mio padre, che aveva un'esperienza nel settore nella vendita molto importante e conosceva i rivenditori più importanti del settore. La storia professionale di Rosario Messina inizia quando, a 16 anni, va a lavorare come addetto alle vendite alla Rinascente. Il padre, un agricoltore, era morto da poco e Rosario, primo di 7 figli, pensa a mantenere la famiglia. Intanto si diploma in ragioneria. Inizia come venditore alla Rinascente. Da lì diventa, fa carriera all'interno della Rinascente e poi diventa un agente di commercio per gli elettrodomestici in Sicilia e poi viene contattato dall'allora CEB per vendere invece i mobili, sempre in Sicilia, Calabria. Quindi entra nel settore del mobile con l'azienda leader dell'imbottito, fa carriera all'interno dell'azienda, da agente diventa direttore commerciale e viene in Brianza. Ci spostiamo con tutta la famiglia dalla Sicilia alla Brianza. Siamo attorno agli anni 70, 73, 74. Lui fa qualche anno in CB, che poi diventa BB, dopodiché un'esperienza in Cinova, e viene contattato poi allora dalla Bassetti proprio per vendere, come le dicevo prima, il piumone nei negozi d'arredamento. La Flu nacque quando Piero Bassetti chiese a Rosario Messina di lanciare l'innovazione del piumone utilizzando anche il canale dei rivenditori immobiliari. L'idea fu quella di rivestire il letto di tessuto, di estendere il concetto di piumone, molto in voga in quegli anni, all'intero mobile letto. Invece del solo piumone, un sistema letto completo per dormire, formato dal letto più il piumone, tutto tessile. Una rivoluzione, perché dai paesi nordici arrivava questa comodità del piumone, perché rifare il letto era molto più veloce. L'idea geniale è stata quella di, mio padre mi raccontava sempre, dice, se io devo vendere le cinture di sicurezza per le macchine, ho bisogno della macchina. E quindi allora dice, io devo vendere il piumone, ho bisogno di un letto che fosse bello col piumone, perché ai tempi i letti in ferro magari erano pensati appunto per le coperte. Da lì parte la collaborazione con Vico Magistretti e il nostro primo letto, che porta con sé sia l'idea del piumone, infatti il piumone da biancheria viene anche portato sulla testata in modo da renderla molto morbida, e nasce il nostro Natalì, che in tutti questi anni di storia è sempre stato il letto più venduto di Flu. Il modello Natalì portava con sé anche un'altra rivoluzione nel campo dell'arredo della camera da letto, quella legata al concetto di sfoderabilità, che Flu ha mantenuto, modificandola nel tempo, dalle origini dell'azienda fino ad oggi. L'altra idea importante che porta con sé Natalì è il concetto della sfoderabilità, cioè il fatto che il letto, che deve essere fatto con dei materiali di qualità per durare una vita, però può essere tranquillamente cambiato o aggiornato a seconda delle stagioni o a seconda dei gusti del momento o delle mode del momento. E quindi semplicemente cambiando il rivestimento, lavandolo o banalmente volendo cambiare colore, si ha una camera da letto nuova con una spesa, diciamo, contenuta. Una chiave della crescita di Flu è stata quella di introdurre nella produzione di letti il design e la firma di grandi architetti, primo fra tutti Vico Magistretti. Il nome della Flu è legato sicuramente a quello di mio padre. Nasce con mio padre dirigente, che viene chiamato da un pool di aziende per fare questa nuova avventura del piumone. E progressivamente poi mio padre acquista la totalità delle azioni dell'azienda. L'esperienza commerciale della vendita, come dicevamo prima, mio padre è partito da addetto alla vendita alla Rinascente, quindi il contatto col cliente, l'attenzione al bisogno delle persone ha fatto sì che in questi anni di storia l'evoluzione dell'azienda sia sempre andata nell'ottica di rispondere alle esigenze del consumatore. Sicuramente la figura di mio padre e la figura di Vico Magistretti, che ha firmato i nostri prodotti più importanti, hanno dato anime e core, diciamo, dell'azienda. Col successo di Nathalie, Flu riuscì a poco ad espandersi, a istituire un centro ricerche e sviluppo e a specializzarsi in quello che viene definito sistema letto, materassi, guanciali e complementi d'arredo. L'importante è riuscire a creare dei prodotti che il cliente potesse trovare nello stesso ambiente, che poi facciano dormire meglio. Quindi oltre al letto, al piumone, nasce la nostra linea di materassi, di guanciali. Vengono, diciamo, lanciati 10 anni dopo la nascita dell'azienda. Nel 90 un'altra innovazione è stata quella che noi abbiamo definito prezzo trasparente, cioè arrivare al mercato con un prezzo che fosse uguale in tutti i rivenditori, in modo che il cliente finale avesse la certezza che i soldi spesi equivalevano veramente alla qualità del prodotto che comprava e non ci fosse un battagliare di sconti che dicesse che chi aveva più tempo, era più bravo, comprava lo stesso prodotto a prezzi diversi. Questo è l'anno 96 e da lì in avanti collaboriamo sempre in maniera più stretta con i rivenditori, in modo da avere degli spazi all'interno dei rivenditori che diano la possibilità al privato di vedere sia i modelli ma anche di provarli, perché sappiamo tutti che dormire bene vuol dire anche passare una giornata migliore durante il giorno, e quindi poter provare il letto nei rivenditori è sicuramente un elemento che aiuta la scelta del letto migliore. Oggi Flu è un'azienda solida, con un'unica sede produttiva, a Meda, e un'organizzazione molto legata alla realtà economica del territorio. Noi siamo come dipendenti 130, perché abbiamo fatto tesoro del distretto industriale del quale facciamo parte. Abbiamo all'esterno fornitori che collaborano con noi da 20-30 anni, che sono, anche se entità distinte, in realtà parte integrante dell'azienda. L'80% del fatturato viene realizzato in Italia, anche se l'azienda esporta i suoi prodotti in tutto il mondo e dal 1989 è distribuita in Canada in joint venture con partner locali. Come azienda di design abbiamo la fortuna di aprirci a oltre 70 paesi nel mondo. Noi siamo fortemente radicati in Italia e circa l'80% del nostro fatturato è sviluppato in Italia. La crescita impetuosa dei primi anni dell'azienda ci ha permesso di focalizzarci sul nostro paese, per poi dedicarci ai mercati esteri solo ultimamente. Diciamo che esportiamo da circa un 15 anni nella maggior parte dei paesi, che per un'azienda del mobile è un periodo relativamente breve. Nel 2009, anno tra i più difficili per tutto il settore dell'arredo, Flu ha ricavato dall'export il 28% del fatturato. Nel 2010 il fatturato totale dell'azienda è stato di 33 milioni di euro. Le prospettive per il 2011 sono buone. Il 2011 lo vediamo già come un anno di recupero, trainato dai mercati esteri prima che dal mercato italiano. Abbiamo dei piani di sviluppo importanti, sicuramente l'aver portato la sfoderabilità dal letto agli armadi darà un impulso importante a quello che è la parte, diciamo, guardaroba che abbiamo appena lanciato, dai quali ci aspettiamo una crescita importante. L'attenzione crescente dei clienti nel benessere e quindi nel dormire bene ci sta aprendo anche delle buone prospettive per quello che sono poi i nostri prodotti storici, che è il letto. Oggi l'innovazione tecnologica è legata alla sostenibilità ambientale. Noi siamo certificati ambientale ormai da 4 anni. L'obiettivo è quello di produrre sempre prodotti di miglior qualità, con un'attenzione particolare alle energie impiegate o ai materiali impiegati. le tecnologie, soprattutto produttive, vanno avanti. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato una base nuova che, sfruttando dei macchinari al laser innovativi, ci ha permesso di arrivare al mercato con un rapporto qualità-prezzo migliore e risparmiando il consumo di energia. L'importante è avere l'obiettivo ogni anno, ogni giorno, di sprecare meno e ottimizzare le risorse. E progressivamente, dai pannelli solari che abbiamo messo sul tetto dell'azienda, o l'attenzione costruttiva nell'eliminare magari viti sostituendole con incastri, e ogni piccolo dettaglio porta ogni anno a poter dire: sì, abbiamo riciclato o utilizzato meglio il 5, il 10, il 15% di risorse. Io ho avuto la fortuna di crescere in un mondo piacevole, ho due bambini, uno di 3 e l'altro di 10 mesi, mi piacerebbe dare a loro la stessa possibilità, contribuendo con quello che nella vita di tutti i giorni, nel nostro lavoro, possiamo fare. Il fondatore Rosario Messina ha ricoperto importanti cariche associative. Da presidente del COSMIT, comitato organizzatore del Salone del Mobile, ha consacrato Milano capitale del design. Nel 2008 fu eletto presidente di Federlegno Arredo e ricevette dal presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere del Lavoro. Una presenza molto forte fuori e dentro l'azienda. Per il carattere che aveva mio padre, più che una strada ha segnato un solco talmente profondo che è molto facile da seguire. L'azienda è partita, diciamo, da un'idea innovativa, ma si è poi sviluppata, come in tutte le cose che mio padre portava avanti, portando avanti dei valori che sono più sociali, se vogliamo, che economici. Cioè, il voler lavorare bene insieme, creando un gruppo di persone per fare sempre un'innovazione, un progresso nel senso di aumento di benessere sia dei clienti che delle persone che lavorano con l'azienda, è sicuramente il caposaldo dell'azienda, è la strada, quel solco che le dicevo che noi continuiamo a seguire. Di mio padre si diceva che aveva una forza e un'energia incredibile, e credo che, per come ci sentiamo adesso, questa mancanza grossa poi all'interno ti dà quella forza per andare avanti che lui ha tenuto per tutta la sua vita, e che quindi in azienda e noi per primi non vediamo l'ora di portare avanti, di coltivare con la stessa forza che ha fatto lui. Flu nasce come azienda familiare e si sviluppa con una struttura manageriale. I 3 figli di Rosario Messina, Massimiliano, Cristiana e Emanuela, coprono rispettivamente i ruoli di direttore generale, responsabile trade marketing e responsabile ricerca e sviluppo. Un'azienda familiare nel senso che è proprietà di una famiglia. Noi lavoriamo in azienda, ma l'azienda è un'azienda sicuramente manageriale. Mio padre ha fatto una carriera da venditore a agente, a dirigente, a sindacalista, quindi sapeva perfettamente come si può lavorare per un'azienda, e quindi ha voluto creare all'interno dell'azienda un ambiente di lavoro piacevole e stimolante, dove noi siamo una delle componenti, diciamo che siamo 3 persone che lavorano insieme alle altre. È Massimiliano che, alla morte del padre, prende in mano la guida dell'azienda. Ero con mio padre direttore generale, quindi la gestione diciamo dell'azienda in questo momento fa riferimento a me. Le mie sorelle hanno la più grande, una sensibilità commerciale di rapporto con le persone che rispecchia un po' quella che era di mio padre, quindi si occupa più della parte commerciale, mentre noi, diciamo, la piccola, anche se ormai gli anni cominciano a passare, ha sicuramente un'attenzione alle mode, ai nuovi prodotti che la portano più a occuparsi del centro ricerca. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.